mi chiama Roberta. Buongiorno. Oh, una domanda, ma cosa? Mario Mazzo, che fine ha fatto? Tu non ti sei zitto? Io ho trovato una volta a Porto Torres, mi ha detto che stava dormendo in gombone, poi non lo so che fine ha fatto, che non l'ho più sentito né più visto. Tu Luca, ti sei zitto? E mi ha detto che dovevamo dare una barca più grande, che doveva prendere il rumore e prenderci una barca più grande, tipo una pilottina così che ci hanno per letto, detto tutto qua. Io era venuto forse fine dell'anno scorso, novembre, dicembre, era passato la mia officina, stava facendo un lavoro qua vicino, a una caldaia, però poi non l'ho più visto. Che avanti? Sono sempre qui, ciao Roberto, non posso modulare per ora, vi saluto, ciao Gianni, non posso entrare per salutarvi, sono sempre qui io. Ciao Gianni, ben sentito, dai. Quando vuoi siamo qua tutti. A me fa piacere se tu dici, non c'è nessun problema, perché c'è questo problema Gianni? Non guarda già, sto attraversando un periodo un po' brutto, ok. Vi saluto, vi ho sempre nel cuore, a Roberto glielo ho detto, non mettetevi scrupoli per me. Sapete che mi piace la 27, non mettetevi, continuate a modulare. Sono entrato così e sono vado a guardarmi i film. Ciao, vabbè, ciao a tutti, ma sono qua con chi c'è frequenza, poi chiudo. Ciao Gianni, quando vuoi glielo sarò dove abita, ma dove mi devo trovare. Devo venire sempre, mi sono promesso. Alle prossime, ciao ciao. Ciao Roberto. Oh, mi lasciando la mano in bocca adesso questa stupida. Andare, riprendi Gianluca se ci si. Riprendi qui, dai. Ma Gianluca che fine ha fatto? Stava provando qualcosa e poi è sparito. Gianluca ha detto che stava spolverando penso un lineare che ha tolto fuori e stava provando, quando c'è chiesto i controlli. Un po' di baracchini di Gianluca, mamma mia, ogni giorno ne sta facendo uno nuovo. E anche tu le hai, anche io le ho, non tutti ce le abbiamo perché siamo appassionati e quando ci capita quello che ci piace sul biglietto. Anche io adesso sono fermo da un po', ho preso l'ultimo che ho speso 500 euro, ma poi basta, ho detto basta, tutti su. Ma io mi sono fermato, basta, anche io ne ho speso abbastanza, già basta. C'ho la possibilità di dal portatile al veicolare al fisso adesso, c'ho tutte e tre le opportunità, per cui basta così, c'ho diverse stazioni basi e basta, ma va bene così e basta. Cosa volevo dire, chi c'è rimasto? Franco, ci sei ancora? Franco non ha un bene, ma proprio sano, almeno due anni che non lo sentivo a Franco. Io stazione base ne ho una sola, ma va bene per tutte. Ma base ne ho quattro, una, due, tre, vabbè, senza considerare quell'altro tipo di cosa, ne ho una, due, tre, quattro, sì, quattro effettivi di stazione base. Io ho solo il Galaxy che va bene, molto, un apparato meraviglioso, a me piace moltissimo, ricezione e stereofonico. E mi dispiace per Capri, non so cosa sia successo. Ecco, io avrei preferito che avesse dato delle spiegazioni, ma io non volevo che non c'è nulla di grave. Ma guarda, anche l'altro giorno l'ho chiamato, gli ho chiesto se aveva qualche problemino, ha detto no, non preferiva non entrare, basta, non mi ha dato nessuna spiegazione. Comunque, già siamo qua, mi fa sempre piacere, che l'ho detto, quando vuoi, non vorrei, infatti a me mi dispiace la male se avesse pensato ci fosse qualcosa nei miei confronti o qualcuno, ha detto no, da parte mia non c'era niente, meglio così, almeno quello, dai. Poi gli ho detto, quando vuoi entrare, già siamo qua, sempre ben accetto, la tua compagnia è sempre piacevole. No, io l'ho chiamato due volte, la prima volta non mi ha risposto, non capisco, invece adesso mi ha salutato, quindi come non penso che abbia un... Speriamo di no, dai. Oh, ia, esce la vedete, c'è arrivato qualcuno, attenzione, canale 10, chi vuole entrare, avanti. C'è un disturbo sotto questo, non ho capito cosa, sembra un disturbo tipo quando c'è un neon che accende, è fisso, c'è cioè. Quel rem. Appena appena, ma che si sente? campagna del tunno, Claudio. Non l'ho detto, stasera, hai detto che la fede diventa un po' lo... No, a me piace, lo mangio. Tra parentesi, il tonno è uno degli alimenti più nutrienti, lo sapete, è una di quelle cose, in assoluto dei pesci è uno di quelli che dà il valore nutritivo più alto. Infatti quando fanno dei pasti, per dire, di quelli ad alto potere calorico e a lunga conservazione, il tocco è sempre il tonno. Quando fanno le scatolette, per dire, quando fanno le provviste, quando si parla di roba di guerra, cose del genere, il tonno lo mettono al primo posto, le noci, cioè sono di quei prodotti che danno grandissimo potere calorico. Però ci contengono olio, quindi sono molto oleosi. Sei basso di radio, come mai? Già. Perché stavo parlando lontano, adesso come va? Adesso va bene. Perché questo è un microfono amplificato e poi devi parlare da vicino, è strano, da lontano non funge, funge solo da vicino. Ma un palmarino? Un palmare. No, a me non mi piace, mi è piaciuto. Ne ho diversi palmari, tutti abbandonati. Ce n'è uno attaccato alla 48 e uno attaccato a un altro apparato che non lo sto utilizzando, la 48. Io al mare lo utilizzavo e buco. Piacciono invece, perché io ho detto neanche la comodità e dal modo in cui è la stazione. E io ce l'ho vicino al letto, quindi se devo tirare il filo lo posso tirare tranquillamente, invece con l'altro microfono mi verrebbe male, dai. Non ci stanno, c'è troppa attrezzatura, qua è un casino, quindi la base ce ne sta uno solo, ci sta più 5 nella stazione di giù, perché c'ho tutti i piani, c'ho tre piani, sono tutti e tre completi, capito? Con apparato, trasmetto vasto, tutto quanto, e l'alimentatore, tutto. E Luca che è entrato? Luca ci sei? Vediamo Gianluca, ci sei Gianluca? Sì Roberto, sono entrato adesso, grazie. Ok, va bene. Non so che di cosa stavate discutendo adesso, perché proprio sono salito in questo momento. Stavo salendo un po' di roba laggiù che mi serviva. E niente. Tutto qui. E infatti per più volte che abbiamo chiamato Gianluca non ci ha risposto. Capito. È entrato Capri 2, non so se ne sentite. Sono entrato adesso Gianni, proprio era appena la valigetta con tutti quanti gli si ciaprosagli di resistenze di o di essere così usi, che sono questa che non penso, e va via una marea di valigette, ma speriamo di aver salito quella giusta, perché certo, se la apro giù in magazzino sarà un casino. Avanti Capri 2. Non risponde, ha detto che è entrato per salutarci, però che non può entrare. Va bene, ok, perfetto. Saluti, si sta ascoltando. Sentiremo in occasione migliore allora. Dai. Avanti Gianni. C'era Gianluca, ma c'era anche Luca, Manicomio, ci sei. Sto mangiando l'arancio. Più di tu, vabbè. E questo cos'è l'apparato Gianlu? Questo è un coso, uno Yamada. Uno Yamada. Yamada tu, quello del Flintstone. Bravo, ciao. Esatto, dai. Tutto il Flintstone, robe. Ma Yamada va tu, così. Eia, con la Y, capito? Eia. Ecco, guarda un po' se per secondo. Ok, vedi un po' come robe adesso. Un po' meglio diciamo, un po' più forte. Ma che era cosa vuole che vuoi entrare? Ma tu sì. Io scusate, sono in cuore X, riprendo subito. Ciao Luca, ciao Gianni e ciao Roberto. Arrivo. Io avevo voluto vedere cosa vuoi tu durante quando c'è il questo. Tu di 3 secondi sono il cuore X, poi rientri, ma non sei convivente, Anto. No, è che sono un maleducato, devo dire la verità, però non resisto dopo un po' a entrare a parlare, capito? Perché la tengo in sottofondo anche quando sto lavorando, quando sto facendo cose, quindi sono distratto da telefonate da 2000 cose. Mutaci tutto, rimani qua in frequenza, adesso si sta ripopolando, cazzo. È per quello, quindi non c'è più bisogno della mia presenza, capito? Ah, vabbè, ma quando ha attaccato la spina, Dio Claudio, torna bene, dice, ma no, vivi. Spina? Ah, no, ho attaccato la spina. parla con la schiena, cos'è? Un altro tipo di cosa stai facendo, di cottura, di tonno? Adesso ho finito di mangiare, sono un tonnetto. Sto tonno, che? Io dico, se ti presentavi dopo, volevo che mi dica. Cosa? Giusto, se ti presentavi dopo, non li puoi più venire dopo che ne mangiato a bizzecca. Mamma mia, che sono facciata, ragazzi. Qua non si chiama più coso, Sparviero, adesso si chiama Palmera. Una cosa, bella, bella, insieme, via. Tu, Palmera? Via. Questa è bella, ragazzi, bisogna segnarla nel libro nero. Palmera più lunga in capo a tutte e tre. Dai, sono subito, che c'è ancora gente, a dopo. Dai, un altro pezzo di tonno, che... Ciao, ca. Ciao. No, ma mi mangio un po' di frutta, dai. Se no, poi... No, vabbè. Non riesco a... A... Come si dice? Non ve lo dico. Digerito. A cagare. Come fa Giuli, ti prende e ti fa tutto quanto lo scarico dell'aria. Va via. Ah, sei già lui. Veglia. Allora, dai. C'è una chiesa, cazzo, ma gli del turno, ma non è che se ne deve andare a lasciare ritornare, no? No, un tonnetto, giù. Allora, allora, ti vanno a fare male? Tu pesci già zero colesterolo, non ti preoccupare, già andare. Ma almeno non è che ne ando vacco, ti rimani un po' veri da asciutto, rimani. Sono bagliso, non è che mi chiamati mattina più da. Diverse maniere, sempre bello, bello zuppo di vino bianco, e ti dico che già va bene, non c'è male. Bianco per me, avanti Robè, fai girare, a dopo ragazzi. Claudio, provo la pizza gola con i capi. No, l'hanno fatto affogare nel vino, capito? Si chiamava tonno embriaco. Tonno affogato. La pizza gola, provalo con i capi. Bello, domani Gianni che non l'ho fatto ancora. Ma quello c'ha ragione, sì, è vero, con i pomodorini, capperi. Domani, domani. Per la salie. No, ci ti dai zombiti, puro. Cappa, cappa. E allora, Luca, cosa stavi spolverando poco fa? Racconta. C'è una radiolina che c'avevo sopra l'armadio, la stavo provando, però mi manca una resistenza da mettere la lampadina, non la devo lasciare. Mi manca una resistenza, cioè, sto cercando una resistenza, ma se no mi si brucia sempre la lampadina. Quello quando metti il voltaggio dell'alimentatore. Lo so, lo fa già, e per quello gliela voglio mettere, sono sempre qui. C'ha delle lampadinette lì. E già non ci ho bruciato, non vedo chi si è diventato io. Infatti ce ne so prendere sopra la lampadina. Vedo la GBC con la 12, col filo attaccato e via. Quelle a freddo? Quelle a freddo, quelle lampadinette a fredde? Quelle lì sì. Sono un filo attaccato, ho fatto che sono andato e via. Ah, ok. Ragazzi, ma io ho una bella maturata, perché tanto lo so che di tanto vogliono cambiare. Poi il bello che io sono maledetto, che se vedo che c'è qualcosa che non va, non sto tranquillo, capito? Devo farlo subito. A me lo si disegni, sono come prendere un gabbo io. Non dico che non riesce a dormire, però... Non mi piace, mi piace con calma e con la consapevolezza che ho fatto qui dove dovevo fare. Beh certo. Come mi viene la spaiva? Beh. Dimmi se. Tu non sei così. No, mi sono detto un attimino, stavo guardando una cosa. Cosa avete detto? Ho detto che io, se praticamente sono maledetto nel fatto che se prendi una lampadina non funziona, la devo subito cambiare, perché se no me la trovo mi viene nervoso, non mi piace vederlo che non funziona la cosa. E vabbè, diciamo anche io più o meno le stesse cose, perfezionista sono, molte volte anche esageratamente. Non è mai troppo, vabbè. Tutte le cose, anche in altre cose, mi piace. piace sempre vedere sempre se c'è una cosa, un quadro storto, una cosa che non è messa perfettamente in linea, cose così, io ci vado, cerco sempre di metterla, anche un oggetto, cerco sempre di, forse è una mania, non lo so. Si chiama ossessivo compulsività. Non c'ho la mania però, che è presente, che riesco ancora a ragionare con la testa mia, non so come, morbosamente esagerato. Sì, ma comunque ce l'abbiamo tutti, un po' di ossessivo compulsività, cioè ti dà fastidio, ci stai male se le cose non hanno un ordine che tu hai a livello mentale, quindi se ad esempio non sono simmetriche, ma sono asimmetriche, quindi non ti danno quella specie di tranquillità che tu hai come regola, tu devi andare lì per forza di cose spostarla. Sì, a proposito, adesso mi sei venuto in mente, Antu, mi sembra che ho sentito anche un discorso, l'altro giorno stavo chiedendo in giro, però nessuno me l'ha confermato, tu l'avevi tolto quel discorso della gente che è coricata nel letto d'ospedale, che ogni tanto cambiano la posizione degli oggetti per non focalizzare sempre la stessa posizione. No, io non l'avevo detto, ma non era questo, cioè in ospedale hanno le porte e finestre per evitare appunto che ti si accorci la vista, cioè che non abitui più l'occhio a mettere la messa a fuoco da lontano. Quindi cosa fanno? Mettono la porta a finestra in modo tale che tu possa vedere se nella strada anche se sei coricato, capito? Infatti l'ho sentito anche questo discorso qua, perché se rimane sempre sollecitando l'occhio in quel tipo di luce, quel tipo di distanza, alla fine il nervotico rimane fisso, è come quando stai sempre coricato, i muscoli si atrofizzano, è la stessa cosa per il... Infatti è una cosa, non ci avevo mai pensato, però me l'hai fatta pensare tu, ed è una cosa molto molto importante. No, è vero, se tu guardi anche quando stai a casa per un'influenza, basta che poi esci fuori e hai quasi fastidio alla vista, nel senso che non riesci a mettere fuoco da lontano, capito? Ma è normale. Chi studia gli ospedali sicuramente un po' di cervello ce l'ha capito, quindi devi pensare anche a queste cose. No, no, una cosa interessante, non ci avevo mai pensato, me l'hai fatto notare tu, anche se non me l'hai detto personalmente, la stavo ascoltando un giorno la discussione, poi ne ho parlato con qualche donato, però nessuno mi ha avuto, saputo dare la risposta, nel senso tu mi stai confermando quello che avevo più o meno capito. Dai, sono tante piccolette, però se ci pensi sono cose molto molto importanti. Io direi di far riprendere l'amico che ha mangiato il tonno, se c'è ancora. Avanti Claudio. E riprendo io, speriamo che non siano tutti come quelli che hanno progettato l'ospedale di Sassari, si sono dimenticati di fare l'ascensore. No, quello è il meno peggio. Ma tu lo sai perché hanno ritardato la consegna? Perché avevano ordinato i letti che erano più grandi, e quindi siccome le stanze adesso sono monostanze, o meglio da due letti massimo, non riuscivano a far uscire il letto con le rotelle, no? Per portarti magari in sala operatoria, non riusciva a farci passare neanche la barella, talmente li avevano ordinati grandi rispetto ai corridoi. Il minimo, avevano fatto le di porto, cioè portavano gli ammalati gravi, perché gli ammalati gravi si tratta quando li portano con le di conto, e poi lo potevi scendervi perché non c'era ascensore. Ma quello lì, anche quello lì lo sai perché in breve avevano fatto la piattaforma e l'hanno progettata per un elicottero che non era quello che di solito porta gli ammalati, quindi non hanno potuto fare il collaudo perché il peso di quell'elicottero era decisamente superiore, capito? E poi c'era questa rampa che dici tu, per cui alla fine avrebbero dovuto usare l'ascensore, un casino. Casino, sì. Ma quando mai uno progetta queste cose e non pensa in un ospedale che ci vuole l'ascensore per scendere gli ammalati? No, quello lì l'ha fatto proprio per il 118, per l'elicottero del 118 che doveva calare lì quando praticamente c'erano incidenti gravi o c'era qualche infarto grave, eccetera, eccetera. Lo portava all'elicottero e poi lì lo scaricavano e lo portavano in reparto. Ma se non ci fanno l'ascensore, come lo sarà mai? Sì. Ma ti ripeto, la cosa non ci fa tirare più di tanto, però se pensiamo che tutti questi soldi sono denaro pubblico e l'esborso ti viene proprio dalle tue tasche, cioè quello che ti tolgono in busta paga, capito, per pagare le tasse, vanno poi a finire magari in questi errori clamorosi e le stesse persone che poi li fanno non vengono neanche puniti, perché li pagano e la roba rimane così. invece ci sarebbe da denunciarli, capito? E fargli il rimborso, capito? Per prendergli il quinto dello stipendio. Va bene, se permette, 380 euro di trattenute. Comunque, bisognerebbe mandare coso. Striscia la notizia. Figlia. Ma adesso ripassiamo a Roberto un attimino, ma quello che mi fa ridere, senti, saltando i pali in frasca, cosa è successo stasera? Sono andato a vedere un appartamento, a un certo punto questa signora, non so per quale motivo, ci è uscita parlando di politica e mi ha detto, perché bisogna, dice chi vota lei, io gli ho detto, molto probabilmente non andrò a votare quest'anno, dice no, invece fa male, deve andare a votare Grillo. Perché una di quelle persone vedrà che li manda tutti a casa questi farabutti, questi ladri. Gli ho detto, vabbè, continuiamo a parlare. Dopo 5 minuti gli ho detto, signora, ma a proposito, il contratto come lo registriamo? No, contratto non è registro. E allora che mi mangiano tutto in tasse? Era peggio di là. Hai capito? Ma la maggior parte di quelli di destra, la maggior parte di quelli di sinistra, poi si criticano a vicenda, ma sono tutti uguali. Tu guarda un attimino quelli di sinistra, messi al potere. Guarda Soru era il piccolo Berlusconi, ha fatto le stesse porcherie che ha fatto Berlusconi in grande, lui le ha fatte in piccolo. Sì, ma sono tutti della stessa pasta, io la penso così, a meno che diciamo al potere venga gente nuova, gente che abbia idee e che sia all'altezza di fare il lavoro, sempre pretendendo uno stipendio adeguato, non... tutti quei soldi che prendo, che è una cosa esagerata. Ma tu guarda Monti, che ha detto che non sarebbe mai candidato perché era un tecnico, anche quella è una vergogna, è al pari di come aveva fatto Di Pietro, capito? Quello è il vero conflitto di interessi, ma come? Ti mettono lì per non essere di parte, per essere neutrale, e dopodiché la prima cosa che fai quando ancora non ti è scaduto il mandato, che ti senti bello il culo al caldo, ti abitui e dici, beh, adesso voglio fare il politico anch'io, ma quanto puoi essere credibile? Ma poi tutta quella gente lì, tutta quella gente che c'è lì ha già rubato, è inutile che tu voti le persone che rubano, sappiamo già che hanno rubato, cosa le votiamo a fare? Sì, ma la vera vergogna, e dopodiché rilancio Roberto, è che una persona qualsiasi deve stare almeno 40 anni di lavoro, diversamente INPS deve fare, se non anche qualcosina di più, per avere una pensione che fa davvero pena, perché non riesci neanche a viverci. Loro basta che facciano un mandato e si ritrovano una pensione, un vitalizio di pensione di 20.000 euro o comunque 15.000 euro minimo, capito? Per un anno che hanno fatto lì a grattarsi la pera. Roberto, avanti. Proposta l'avevo fatta l'altra volta, ha detto mandiamoli tutti via e prendiamo qualche giapponese, qualche danese, qualche scandinavo a governarci loro, che forse ci insegniamo qualcosa, perché a livello di governo siamo vergognosi da tutte le parti, destra, sinistra, centro e qualunque parte politica sia, è una vergogna, non abbiamo persone all'altezza. E io, ma intanto ormai la mentalità degli italiani è quello di fottere, capito? E di cercare di fare il proprio guadagno sulle spalle altrui, e ce l'abbiamo insito nell'animo, nel DNA, quindi prima di cambiare e sradicare questo tipo di mentalità ne passeranno di anni, altro che, figurati. E comunque, saltando di palo in frasca, a parte che sicuramente vedrai che adesso vuoi che una mela marcia nel cesto di Grillo non ci sarà, e vedrai il casino che succede, perché sicuramente lo eleggeranno, ma vedrai il casino che succede, perché è una grossa responsabilità quello di voler mettere a posto il casino che c'è. Comunque, e tu a chi voti, Robè? A Grillo assolutamente no. Purtroppo non c'è nessuno all'altezza, non lo so esattamente, ma non a Grillo. Sicuramente Grillo è l'ultima persona insieme a qualche un altro che è proprio antipaticissimo. Grillo non lo voto assolutamente perché è una persona falsa, ha creato tante cose lui e adesso sta cercando di parlare male degli altri, lui è peggio di loro. Basta leggersi il curriculum di Grillo, tenendo un po' della storia di quello che ha fatto, di quello che ha combinato e poi ti rendi conto se lui è meglio degli altri. È troppo facile parlare male di tutti, adesso la gente sicuramente lo voterà. perché c'erano tutti contro i politici. È come quando voti a Cicciolina che si mette a candidare, è un voto di protesta, però non ha nessun significato, perché lui che cacchio di, che cosa c'ha per fare, per mandare avanti, per portare avanti la, lo Stato e la nazione? Non esiste, è una persona incapace e ne ha fatto peggio degli altri, pare non così grossi come li hanno fatti i politici che si stavano governando, assolutamente no Grillo. Perché quelli che ci sono più capaci? Assolutamente no, dico, però lui è ancora peggio, perché poi lui si mette a parlare male, prova a chiedere un po' in giro, informati cosa ha combinato lui, delle aziende fatte da lui, parla di ecologia, di quello, di quell'altro, e costruiva delle cose, e aveva delle fabbriche di non so, di Google, adesso non mi ricordo tanti particolari, però ho sentito tante di quelle cose lette, ma verità non balle. Cose scandalose, tanto prima o poi sono fuori, come sono uscite per Berlusconi, per quella storia delle ragazze, delle Entry News, per D'Alema, per Prodi, non c'era neanche uno al di sopra delle parti. Da quando è morto Pertini non abbiamo un politico all'altezza, no? Qua in Italia. L'unica persona leale e onesta era Pertini, tutti gli altri che sono venuti dopo e anche prima di Pertini qualcuno sono una vergogna per noi, per il mondo e per l'Italia. Su questo non ti do ragione, mi dispiace, sicuramente tu avrai un ottimo ricordo perché avendo quasi la mia età, quindi Pertini per te era il presidente che ha ricucito le sorti dell'Italia, soprattutto in un periodo difficile, però anche Pertini ha fatto tante di quelle porcherie insieme ai fratelli quando si metteva a uccidere, a fucilare subito dopo la liberazione, soprattutto in Milano, ragazzini fascisti che avevano 16 anni, che non avevano certamente colpe, se non quello di essere nati in un periodo dove gli avevano inculcato e gli avevano dato un certo tipo di educazione, e loro li trucidavano, perché cosa poi alla fine? Quindi anche Pertini sicuramente i suoi cadaveri nell'armadio ce li ha, e anche lui era un presenzialista, perché non so se ricordi la storia di Alfredino Rampi, quello che era caduto nel pozzo, anche in quell'occasione diciamo ha voluto essere partecipe, ma esclusivamente per una questione di visuale, basta. Però non lo so, non l'ho mai stimato come persona. Guarda, io ti ho detto il meno peggio, sicuramente non sarà stato anche lui al 100% pulito, perché non esistono puliti a quei livelli lì, però molto meglio di questo che abbiamo adesso e di quello che avevamo prima, che questi due hanno oscurato tutto, l'hai visto, tutte le prove di vergogna, le hanno dovute incenerire perché sennò non riuscivano fuori gli altarini, così quello che c'era prima, sono delle persone... Non dico altro, dai, perché non bisogna parlare di queste cose di politica, però io posso dire che Pertini almeno non ha rinnegato i propri principi. Quando è venuto, chi era quello della Jugoslavia, Tito, non gli ha toccato la mano, ha detto io non te la tocco la mano, non ha rinnegato i suoi principi, quello lì, al contrario di tutti i politici che abbiamo avuto in Italia, che magari parlavano male della Libia, però andavano e li baciavano la mano. Sì, quella è stata una vergogna, quella, guarda, è stata una delle pagine più vergognose della rappresentanza in Italia, dell'Italia in Europa, una cosa davvero vergognosa, ma quando mai un rappresentante di uno Stato si mette nella condizione di baciare le mani a un assassino? E infatti quello lì, che guarda, ti dico, poi alla fine era anche più sincero del Berlusca, la prima cosa che ha detto è quando lo stavano perseguitando, dice, ma il mio amico Berlusconi dov'è? Non so, è tutta una mafia, però Berlusconi ha fatto anche qualcosa di buono, non diciamo solo le cose brutte, qualcosa di buono ha fatto, per cui io dico, nel peggio ce ne sono stati peggio di lui, perché adesso questo Monti, che dovrà essere un tecnico, come hai detto tu, una persona al di sopra delle parti, cacchio, adesso ti ributti in mezzo tu, ma lascia prendere e tornate dal Venezuela venuto, perché io all'inizio l'ho apprezzato, ho detto piano piano farà dei sacrifici, lo sa, non c'entra niente, lui è più mafioso di quelli che c'erano prima di lui. Poi non l'avevo mai visto prendere aria ai denti, era sempre morrognoso, adesso di colpo sta lucidando la dentiera ogni giorno. Ma secondo me la paura mia è che qua succeda qualche cosa grossa, secondo come vanno a finire le elezioni, tu non ci credi? A parte che tutti i sondaggi vengono cambiati giornalmente, prima vince uno, poi vince l'altro, poi passa l'altro ancora, è tutta una cosa. Adesso la gente sta iniziando a capire che Grillo non è quello che dice lui, bisogna starci un po' attenti, perché quello è un rivoluzionario che non ha nessun principio e nessun valore, per cui bisogna stare attenti. Guarda, io non entro in merito alla politica, perché chiaramente stiamo parlando senza prendere le parti, però dico questo, se in Italia ci fossero stati dei generali con le palle ci sarebbe già stato un colpo di Stato, guarda. meno male che non è così, meno male. Meno male, hai detto bene, meno male, se no per me viene l'Argentina o dei colonnelli in Cile, eccetera, eccetera, o in Grecia, lasciamo perdere. Almeno quello la libertà ce l'abbiamo, non ce la toglie nessuno. Almeno quello, saremo corrotti, mafiosi, camorristi, di tutto ce l'abbiamo. Però la libertà ce l'abbiamo ancora. Non dico che sia il topo del mondo, però siamo ai massimi livelli. Ma in Grecia hai visto che fine stava facendo? Stava andando a prendersi la roba nei supermercati, a svaligiare i negozi, un casino sta facendo. Ma non fanno vedere niente, lo sai che non si vede niente in televisione. Ma io l'ho letto su internet. Ehi, stanno nascondendo tutto, stanno cercando di non far vedere niente, perché quella è una cosa che può succedere anche all'Italia, a Portogallo, alla Spagna, non dico alla Francia, perché la Francia lo Stato è forte. Però può succedere anche in paesi più sviluppati della Grecia. Però questi paesi di cui non si sa niente a me un po' mi preoccupano, un po' come è successo per il Giappone. Tu immaginati che del problema atomico non se n'è più sentito niente, di Fukushima, eppure ha avuto delle radiazioni pari a 20 volte quelle di Chernobyl, e non si è più sentito niente. Quelli sono pericolosi, perché chissà cosa, che casino c'hanno ancora e non ne stanno facendo parola. Quello ha detto bene, purtroppo. Però i giapponesi, diciamo, c'è una tecnologia, diciamo, sono all'avanguardia, diciamo, potrebbero anche piano piano sistemare la situazione, al contrario della Russia, che di lì proprio cacchio non avevano neanche i soldi e i mezzi per farlo. Però hanno fatto una bella figura di merda con questa cosa. Tecnologia, tecnologia e poi. E vabbè, smettiamo di parlare, che non bisogna, guarda, per andare d'accordo non bisogna mai parlare, anche se ormai siamo tutti d'accordo, perché ce l'abbiamo tutti contro i politici, di destra, di sinistra, siamo, meno male, siamo tutti d'accordo da questo punto di vista, però non bisogna mai parlare di politica e di religione per andare d'accordo. E soprattutto di politica, perché poi ci sono dei contratti, magari, diciamo per le fatti che non se ne parla, tantomeno qua in radio è sconsigliabile pagare e parlarne. Ok. Cosa volevo dire? Un'altra cosa volevo dire, adesso mi è passato per la mente. Dai, riprenditela Gianni, guardiamo, anzi lasciamo un attimino di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare. Mi sa che più lontano è Gianluca, che era un po' che non parlava. Avanti Gianluca. Sì, vabbè, ne parliamo. Viviamo un paese ancora democratico, così che abbiamo il diritto di esprimere le nostre opinioni sempre con dovuti modi. E dovute così espressioni, senza che incitano alla violenza e soprattutto all'istigazione. Ma il problema è veramente grave quello che stiamo vivendo noi sotto oggi. Grillo ha detto benissimo una cosa tua, ha detto praticamente è una persona che non fa, cioè la sua propaganda, il suo programma è accreditare quelli che c'erano prima, così che no, tu devi fare un tuo programma, devi dire anche l'altra sera, quando era in quella trasmissione, l'hanno fatto il punto delle domande e lui praticamente non sapeva dare un punto perché lui non aveva un suo programma di quello che doveva fare, ma se non altro che dire quella ha rubato questo, quella ha fatto questo, quella che ha fatto quell'altro, così non è fare i comizi o fare propaganda elettorale, assolutamente, il cittadino oramai è stufo, capito? Le cose che penso io, è inutile criticare, dai programmi tu e dai le cose, le soluzioni. Purtroppo troppo facile è a sparlare, perché tutti i politici, qualunque partito c'ha sempre un programma, quello lì ha parlato solo di critiche, giuste, giustissime, niente da dire, però e tu cosa dici in cambio? Ma purtroppo quello lì, la gente vuole, va bene, il discorso è questo qui, non sarà quest'anno, sarà il prossimo anno, sicuramente perché lì queste cose qua, la prima cosa che da fare è soprattutto avere tutti i tagli di questi vitalizi e tutte queste spese che ci sono, che la gente è stufa di sentirsi dire o di venire a conoscenza che quello andava e si faceva le cene qua, si faceva le cose là, queste cose qui, con i soldi pubblici. La prima cosa è quella lì, far vedere, dargli praticamente un segnale diretto, prima di tutto di levare troppi parlamentari e troppe cose qui, e fargli campare, non fa un anno, fa 10 anni, come ti campui a Mellino. i campi buono tutto tranquillo. Oppure un partito, va bene, non dovremmo risultare dagli 5.000 euro, 20.000 euro, visto che sono benissimo, ma con dopo la scorta, che la paghi da chi siete in amparo, cosa che non vi fate, luce, e da chi siete in amparo, che siete potenti, uso e basta. Ma adesso vi dico una cosa, anche nel nostro piccolo, tu Roberto sai quanto prende un consigliere comunale? Sicuramente molti soldi, adesso esattamente non lo so, ma quelli vanno anche a gettone di presenza e poi non puoi dire no. No, negativo, sbagliato. Ed è questa la cosa strana. Un consigliere comunale, perché ne conosco e quindi te lo posso dire per certo, prende 700 euro. Ora, per fare una campagna elettorale minimo per essere eletto, ne spendi 20.000. Capito? Quindi significa che questo qua per 3 anni deve guadagnare per ammortizzare quello che ha speso in campagna elettorale, quindi è una cosa fallimentare. Ciò ti fa capire che se lo fanno evidentemente gli intruiti non sono il gettone presenza o lo stipendio che gli danno, ma ben altri. È poco ma sicuro. Beh, signori della Corte di Palmarola, io devo interrompere le trasmissioni, ci sono già da un pochettino, saluto a tutti, vi auguro un buon proseguo di serata a tutti e 3 o 4 o 5 quelli che stanno ascoltando. Saluto di nuovo Gianluca, il più lontano, Gianni Doppio Room, l'amico Antonio Grode, è sempre un piacere parlarti, le tue cose di spirito fanno sempre piacere, e poi gli eventuali amici qua in ascolto. Cuoretti da parte mia, ciao ciao a tutti. Ricambiato al 100 Robert. Buon QRX, eventuale QRT, non so se hai già fatto carica batteria, ma ti rinnovo comunque. Buon proseguo di serata. Avanti Gianni per il finalino. Ciao Robert, buonanotte e buon lavoro per domani, ci sentiamo. Ciao Roberto, grazie della conversazione e della compagnia. Buonanotte e buon tutto per domani. Ciao, alla prossima. No, la prima di te, ma stavo facendo per caso la pennacchia, di nuovo problemi sta lavorando questo apparato. Oh, ho sentito anch'io prima, ma leggermente. Che qualche volta mi capita anche voi, ascoltando sendo tipo Sky, che vorrei, l'ho lasciato acceso per 4-5 ore questo apparato, ho detto se si riprende, ma mi sa che il difetto rimane. Ma dagli una spruzzata di quella specie di rinnova contatti, che per le pulizie dei contatti, forse c'è un po' di umidità. Ma no, insomma io sto pensando che sia il problema nascatuto dall'accordatore interno, perché ho notato quando è freddo non riesce neanche a prendere bene i segnali, poi piano piano scalda, perché è successo già a tempo quando l'avevo preso questo qua, c'era problemi sull'accordatore, ma ti va leggermente fuori banda e per quello si abbassano i segnali, si ha delle scariche. È possibile. Ok, di nuovo ciao a tutti, ciao ciao. Ciao, avanti Gianluca. Siete sovramodulati, vai avanti Gianluca, è passato Gianni. Ciao Roberto, alle prossime, buonanotte, buon tutto per domani, ciao, alla prossima. Comunque la vera vergogna secondo me che ci riguarda è la legge che è stata istituita il 6 agosto del 1990, numero 223, detta anche legge Mammì, che è quella che ci ha tolto la libertà di parola, ed è per quel motivo che i cibi sono sempre stati visti come dei pirati, o meglio come dei rivoluzionari, per il semplice fatto che la vera libertà di parola secondo me la sia utilizzando un sistema come quello radiofonico, perché superi gli ostacoli e puoi arrivare da qualsiasi parte. Nel 1970, voi dovete sapere che sono nate tutta una serie di quelle famose radio di partito, comunque quelle piccole radio che a volte non andavano oltre il quartiere, che stavano offuscando completamente la Radio Rai. Per questo motivo è fuori uscita questa legge che le ha tutte quante assagamate, come si dice in inglese, e ha riportato l'attenzione sull'unica rete nazionale. Silenzio. Danni? Cosa dire uno sui partiti? Perché chiedono i soldi a noi partiti e non si finanziano come si finanziano anche diciamo le come si dice i sindacati si finanziano con i soldi dei tesserati, poi dovrebbero fare anche i partiti. Dovrebbero, ma infatti funziona così. Siccome le leggi, la legge che hai appena esposto, quello sui finanziamenti statali dei partiti, chi le ha fatte? Le ha fatte i politici, l'hanno fatta, non l'hanno deciso i politici, gli stessi politici che fanno parte dei partiti. E ti spiego perché. Siccome, come succede a livello comunale, a livello regionale, a livello nazionale, i primi che finanziano il partito dovrebbero essere le persone che vengono elette, che ci ritrovano uno stipendio di 15.000 euro al mese, e quindi se è il caso che debbano contribuire alla causa, perché grazie al partito si sono stati eletti. Quindi una parte del loro stipendio dovrebbe essere devoluta. Cosa hanno fatto i furbastri? Per evitare di dare troppi soldi o una percentuale molto alta al loro stipendio, hanno fatto una legge ad hoc dove il partito stesso prende i denari pubblici, quindi chi lo finanzia, solo considerando che il partito rappresenta una percentuale della popolazione italiana, sono i privati cittadini, capito? Le leggi, tu ricordati che non c'è nessuna legge fatta così alla testa di ricoso, sono tutte quante fatte ad hoc, figurati. E subiamo. Avanti già. Vabbè. Ok raga, mi sa che io mi metto un po' a letto, mi cambio, raga, c'è cosa se mi riprendo da lì, ok, se non riprendo che salutati, ciao Antonio. Ancora grazie per questo, anche a te Gianni, e cosa riprendo da dentro, dai, se no mi sentite salutati, buonanotte, ciao ciao. Ciao Gianluca, ci sentiamo, buonanotte. Ciao Gianluca, buonanotte, buon 144, ci sentiamo, e grazie per il coso. Sì, ciao ciao. Gianni, ma anche Luca ha detto il manicomio. E dovevo mangiare una frutta per entrare, boh. Se ho una frutta, l'anguria sta aspettando che maturi, da poi se la mangia in goditura con la buccia. No, è ghiotto di banane, Luca. Ma che se le mangi qualcuno che se la mangi di queste banane. Se le mangia tu. No, lui se le compra ma non se le mangia. Se mangia un chilo. Poi. Chilo di banane, capisci che è difficile digerire le banane. Io avevo assistito a una situazione, non so se te l'avevo raccontata, di quello che aveva visto, di quel muratore di Sorso che aveva visto la prima volta come si facevano le banane flambé, e si ne era mangiato un vagone durante un pranzo. Tu che sai che quando si getta il primo solaio di uno stabile, e l'ultimo viene fatta una cena conviviale con tutte le maestranze. E come al solito si compra sempre roba più del dovuto, e alla fine si finisce in buschi, come si dice a Sassari, cioè ci si tira la roba che avanza. Morale, cosa avevano comprato in questa spesa matta che fanno di solito? Si avevano comprato un casco di banane, ma un casco bello, bello maturo, e non sapendo come farle, gliel'avevano fatta la cosa, flambé, cioè con una padella, un po' di rum dentro, zucchero e la banana accesa, in modo tale che la banana si caramellasse, si sciogliesse. Questo muratore ce ne ha mangiato tre. Alla fine se n'era rientrato in paese in vespino, con i lacci delle scarpe che gli legavano il fondo dei pantaloni, perché si era tutto completamente cagato. Intanto la banana così in me, lo sai come ti fa? La mano di Dio. Cagarella. Tu immaginati, ha un contenuto zuccherino altissimo. Nel momento in cui ci metti ancora zucchero e la incendi, la fai bella calda, come quando mangi la crema calda. Appaga. Con la cioccolata, ma mi fa quell'effetto lì da cioccolata. Io non posso mangiare cioccolato. Una volta mi ricorderò sempre. Quando ero ragazzo eravamo due coppie, siamo andati al Boccadoro a mangiarci la cioccolata, io mi sono alzato e sono stato tutta la serata in bagno, e poi ho dovuto avere la mia ragazza per vedere cosa era successo, a mal di pancia forti e a diarrea di brutto. Quello lì vuol dire che ti eri intossicato con qualcosa? Io per lo stesso effetto, l'ha fatta Manuela una volta a casa, papà la vuoi un po' di cioccolato e dammela, vediamo un po' se dopo tanti anni mi è passato l'effetto. Come ti ha giubita, vai in bagno. Oh. È come un amico che c'ho, come mangia la Ferrini, fa lo stesso effetto. San Farroggio, aspetta a vedere cosa è successo. Ricevuto il pagamento. Pagato già, Piano. No, io... che ho pagato questo qua. Mi ha dato un pagamento di 8,50 euro, cioè a vedere cosa. Mi ricordo, ho capito. No, mi sono comprato il tasto di scatto per la macchina fotografica. Quello che si applica sopra. Sono legato al lato, il tasto di scatto, quello che quando è sul cavalletto schiacci il pulsante e scatta la foto. Io ho capito. Perché c'ha la pompettina, quello lì. E prima era, c'aveva la pompettina, adesso c'ha un pulsante elettronico, no? Vabbè, adesso è tutto diverso. Puoi regolare lo scatto, puoi fermare, eccetera, eccetera. E prima era meccanico, adesso è tutto digitale. Io mi ricordo che con quel tasto lì avevo fatto una fotografia di notte da Fertilia, l'avevo fatta verso Alghero e gli avevo messo un filtro cross screen, un po' zabì, dovevi vedere che roba è uscita, tutte le strisciate delle luci, vabbè. E già lo so, se me lo ricordo, tutto il diaframma tutto aperto, tempi. Eri tu che tenevi, aspetta sto morendo, eri tu che tenevi il diaframma aperto e quindi faceva le strisciate di luce con un 100 AS. No, il posa B, un posa B lo mettevi nello scatto lento, lo tenevi aperto, poi lo mollavi quando volevi tu, e ti basavi sui tempi. Posa B significa posa bloccata, capito? Non lo so, lo so. Quante belle cose abbiamo fatto con la fotografia. Prima ero proprio appassionato, mi vedevo un insetto, facevo la macrofotografia, vedevo un fiore piccolo, tutto colorato, prendevo l'ingrandivo. Quei prati di fiori, quelli che vedevi con tanti colori, quanto ne ho fatti di queste cose, non mai. Ho fotografie, ho scatto lui. Infatti, costava troppo secondo me e poi alla fine vedevi, rimanevi col dubbio finché non te la sviluppavano. Magari era anche più eccitante, appassionante, però adesso è molto più facile imparare perché l'errore lo vedi subito, capito? Poi mi ero dato la diapositiva, vedevo che si spendeva troppo, la diapositiva rimaneva ancora più reale della fotografia. La vivevi proprio, nel momento non vivevi, tipo fotografie sulla neve, tutte queste cose, in coppia con amici, tutte queste cose qua, e ne ho fatto di belle foto, carnevali, un po' di tutto, matrimoni. Lo so, vedi anche quelle dei matrimoni. Non si capisce come mai non siano scesi i prezzi dei servizi fotografici, considerando che adesso la pellicola non esiste più, quindi non c'è la stampa. E adesso ci giostrano tutti, capito? Adesso li puoi anche scegliere le fotografie e tutto quanto, no? Le metti le visioni prima e poi ti scegli quelle che vuoi sviluppare, anche se le vuoi sviluppare. Sì, infatti. Infatti che sì, ma adesso stanno usando anche fare tutta una serie di cose, ho visto, per giustificare quelle 1.800 euro che ti chiedono, ti fanno anche il filmino, intervistano gli amici stile le Iene, intervista doppia, capito? E poi te lo proiettano durante il pranzo del matrimonio. Allora l'ha fatto il filmino, ma ancora non ce l'ha digitale. Stefano Serra, un amico mio, mi ha fatto praticamente da quando erano fidanzati in poi, prima e dopo il matrimonio. Ah, gli ha fatto certe fotografie. Vabbè, Stefano Serra è un grandissimo fotografo. Lo so, mi stava dando lezioni, lui aveva. E che ti mangia lo gap ogni volta che lo vedi, mamma mia, una volta l'ho trovato fuori dell'Eurospin, è talmente appassionante, non all'Eurospin, sì, no, alla Lidl, ma ha mangiato lo gap, lui io lo conosco da quando c'aveva il laboratorio in piazza Colonna Mariana, ma io credo che i fotografi a Sassari siano lui, dopo di che Carlo Anterossanna, e poi c'è anche Nando Quinzio, che è quello della Sassari Segomme. Queste tre persone secondo me hanno fatto la storia della fotografia a Sassari. fatto, no? C'è stato Carta, che era un bravo fotografo, faceva candelieri, tutte queste cose qua. Negativo, non l'ho conosciuto. Carta mi sa che ci sia ancora, non so se sia morto. Però ce l'aveva, guarda, prima ce l'aveva lì a Pascoli, poi l'aveva aperto in via La Marmora, in via La Marmora, però dalla parte scendendo da Basente, c'è Sieni, di fronte quasi a Sieni. Cappa, ho capito. Hai giù capito. Aspetta che sto guardando una cosa. Aspetta un attimino, devo fare una passa e un attimo. Comunque Stefano Sera non è solo fotografo, fa anche spettacolo, fa, racconta barzellette, fa ridere. No, è gamba, una persona squisita. Nel senso che è una persona, fra l'altro, molto preparata. Si vede che, cioè, io dico mangiarmi la testa, ma realmente lui lo fa perché è molto appassionato della materia. Adesso dove ce l'ha lo studio? Adesso no, lo sto vedendo spesso in via l'Italia, la foto, non fotonica così. Aspetta, stavo facendo una telefonata, mi stavo informando di una cosa. Ui, riesci a vederlo. Oia. Sveglia Gianni. No, sono qua di... Cappa, dai, ti devo lasciare, che se ti dico cosa devo andare a fare non ci credi, guarda. Credimi che pagherei per non farlo. E cosa dico? Devo chiudere bilanci di condominio. Non ha giù. Ma lo sai devo dire, cara? Ma nutami, ma nulla. Vabbè, lo fai adesso. Che sarò? Roba bizanti, mamma mia. Progaridale. Ma come fa a avere tutta questa pazienza? Io? Infatti non ne ho. Se non è che lo devo chiudere di un anno, di un paio d'anni lo devo chiudere, quindi me lo sono tirato dietro per un bel... Perché non lo chiudi ogni anno il bilancio? No, quello del condominio può essere anche non chiuso ogni anno, cioè lo devi chiudere, però poi alla fine lo devi presentare durante la riunione. Se c'hai delle persone che si fidano di te, non c'è bisogno che questo avvenga, capito? Si fidano perché gli stai sempre amministrando i soldi, ma sono due di là, figurati, con quello che costa il gasolio. Quando fregano gli amministratori, quando fanno tipo la facciata del palazzo, quando rifanno cose che costano un bel po' di soldi, allora bisogna stare attenti e con le orecchie allerta. Perché da mia madre si era scappato quello lì, con tutti i registri, tutte le cose, c'era un meridione anziano, cioè, conservandosi i soldi, ma c'è addirittura una che sta anche la finanziaria per il pazzo, cazzo, gli hanno rubato tutti gli altri di lì. E perché non c'è nessuno che sta continuando a fare l'amministratore e che era stato denunciato per estorsione e mandato in giudizio, perché sai cosa faceva questo qua? Chiedeva i soldi ai condomini, cioè quando c'era da rifare una facciata, chiamava l'impresa, dopodiché si faceva dare il preventivo, lo portava i condomini gli davano i soldi, lui si presentava all'impresa e gli diceva: mi, se vuoi i soldi me ne devi dare il 10%, capito? Morale, cosa è successo? Che l'impresa si è rotta le balle, ha telefonato 1-1 ai condomini che vedevano e si stavano già lamentando perché vedevano che il lavoro non veniva fatto, e quindi si sono sentiti fra di loro e l'hanno sgamato e l'hanno denunciato per estorsione. Beh, il Chiumacco sta ancora lavorando. Beh, siamo solo là di non li uno. Vabbè, però alla fine le persone che devono essere punite sono sempre in giro, quelli che magari fanno una sciocchezza e ne fanno le gambe subito. Quello lì sono andato io a cercarlo. Sono andato io perché almeno il registro ci doveva tornare, perché c'erano tutte cose importanti, segnate, cose, scarico di spese, di questo, dell'altro. E sono andato nella villa sua, ha toccato il campanello, la figlia ha detto, oh, non abita qui, io le ho fatto il nome, no, non abita qui, come no, se c'è scritto il cognome sul campanello, cosa stai dicendo? E ho detto, vuoi che mi chiami i carabinieri? No, ma mio, non c'è, mio padre non c'è, non è fuori. E fuori, e ho fatto la denuncia per la fine. Ma poi mi successe una cosa del genere di fronte a mia figlia, scaverei un fosso, ma non un bunker farei. E infatti ha coinvolto tutta la famiglia, capito? Beh, il malloppo era grosso, mio, era un palazzo con due portoni, quindi ti puoi immaginare 14 abitanti a portone, ti puoi immaginare i soldi che ha fatto. Guarda, intorno ai... considerando che, adesso non so, però ad appartamento di solito sono intorno ai 3.500-4.000 euro per rifare la facciata. Quindi moltiplica per il numero di abitazioni e capisci che cosa ti mette in tasca. E poi l'amministratore per questo tipo di lavori extra c'ha già un 4% di cose che gli vengono riconosciute per legge. Quindi davvero sei un miserabile, sì. Sto dicendo che c'è stata gente che si è messo anche il mutuo, una signora che era vedova e cose, si è messo il mutuo per pagarsi questa roba qua, era attaccato il buio di radio. Ah, infatti, vabbè, dai, che devo andare, già, grazie per il consiglio, buon 144 quando lo farai, e ci sentiamo alle prossime, buon week, ciao ciao. Ah, ciao, buonanotte, buon lavoro, divertiti. E un saluto da tutti gli ascoltaini. Ciao Luca del Monte. Occhio che diventi cieco a fare quelle cose. Buonanotte a tutti, ciao ciao.